Padre nostro, questa terra è un calvario, un abisso che ogni giorno regala il martirio a chi spiega la vela. Padre nostro, il suo sguardo non ha più orizzonti, la Bibbia, la Torah e il Corano servono solo ai potenti, perché una sola è la via, ma questa strada è un'agonia. Ogni stella è bruciata dal vento, la speranza dall'ipocrisia. Padre nostro, padre del precariato, in questo mondo che sdegna l'onesto, in questo mondo che umilia il diverso, Padre nostro, si ribellano i figli. Nelle tue chiese crisantemi di gigli, imbrogli su imbrogli, araldi commercianti del Natale spacciano un paradiso artificiale, overdosi di preghiere e parassite stanno strozzando quel poco di fede. Popoli dilaniati, massacrati da debiti eterni, reliquie che sputano sangue su poveri ricchi di niente. Il tuo nome è preso di mira da sciacalli del potere. Il tuo nome diventa pretesto per dividere il giusto dal giusto. Ecco a cosa è servito mandarci tanti profeti, li hanno prima uccisi tutti, defraudati dei loro stessi occhi. Padre nostro, perché ci hai abbandonato ed hai lasciato questa gabbia di matti corrompere la luce dei tuoi occhi? Padre nostro, padre degli universi, dimmi quanto è fondo il precipizio in questo mondo dove l'uomo si è perso. Nessuno più ascolta perché nessuno più parla, tutti inseguono ciechi orizzonti, non ce n'è uno che alzi la testa per dire basta a questi scempi. Padre nostro, donne incinte e stuprate, lapidazioni, la fame, la sete, è questo il paradiso di cui tanto parlate? Padre nostro, la terra sanguina odio, il latte del seno è un sapore acido, è questo il vostro divino metodo? Ecco a cosa è servito mandarci tanti profeti, li hanno tutti massacrati, tutti uccisi, Padre nostro, in questo mondo orfano, ascolta la mia preghiera, se ti lasciano ancora un po' d'aria pura, Padre nostro, che sei nei cieli. Scendi un attimo su questa terra e vedrai con i tuoi occhi, vedrai, nessuno più ascolta perché nessuno più parla, tutti inseguono ciechi orizzonti, non ce n'è uno che alzi la testa per dire basta a questi scempi.